Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Vive veramente chi è utile all'umanità e sa usare se stesso. Seneca. Buongiorno e benvenuti da Nicoletta Carbone. Sono circa 1 milione e hanno una grande fortuna. Festeggiano Natale, la festa del dono e della vita, tutto l'anno. Sono i volontari, gli acrobati della generosità, mi piace definirli così. Sono persone assolutamente normali, sono padri di famiglia, mamme, pensionati, ragazzi, che dedicano una parte del loro tempo a fare qualcosa di utile per gli altri. Per il prossimo, che può avere il volto di un anziano, di un malato, di un disabile, di un senza tetto, di un bambino. I volontari spingono carrozzine, distribuiscono pasti, regalano ascolto, gesti, sorrisi e sono ripagati da uno sguardo a loro volta, da un sorriso, da una parola. Ma chi sono in realtà queste persone? Che cosa hanno di diverso dagli altri? Perché cosa li spinge a ritagliare spazi del loro quotidiano da condividere con persone con cui non hanno alcun legame di sangue, di amicizia, di parentela? Bene, ora vi presento i nostri ospiti. Abbiamo qui in studio la professoressa Elena Marta. Buongiorno a tutti. È psicologa e professore di psicologia sociale di psicologia di comunità presso la facoltà di psicologia dell'Università Cattolica di Milano, autrice insieme a una sua collega la professoressa Maura Pozzi di un libro molto interessante che si intitola Psicologia del volontariato, edito Carrocci. Però in studio con me è tornata a trovarci Regina Sironi, segretario generale della Fondazione Abbio. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, grazie. So che i volontari si danno del tu, posso chiamarla Regina? Certamente. Ok, allora do del tu sicuramente ad Alessandra del gruppo Abele, che in linea con noi da Torino. Ciao Alessandra. Buongiorno a tutti. Alessandra è giovanissima, una volontaria di 23 anni. 25 anni. E abbiamo però anche con noi una presenza maschile. Buongiorno ad Aldo Zino Calligaris, presidente di FIDAS. Buongiorno a lei, dottoressa Carbone. Buongiorno e grazie. Allora, noi abbiamo scelto tre forme di volontariato tra loro molto diverse. Direi tre gocce in questo mare di solidarietà che è grande e variegato. Non vogliamo certo rappresentarlo tutto, ma abbiamo scelto tre espressioni. Professoressa Marta, a guardarli dal di fuori sembrano un po' persone speciali, insomma dotate di una marcia in più, persone con il cosiddetto gene della generosità. Che cosa hanno di diverso in più? Sono veramente così speciali come ci sembrano? Direi che in parte è vero che sono persone un po' speciali, dall'altra parte è vero anche che non dobbiamo considerare i volontari come dei supereroi che hanno, sì, dei poteri magici, una bacchetta magica. Sono persone per certi versi un po' speciali perché in un contesto come quello attuale, un po' all'insegna dell'individualismo, dell'egoismo, hanno fatto una scelta direi forte, una scelta molto coraggiosa, che è stato proprio quello di investire del tempo da dedicare agli altri. Ecco, direi che i volontari hanno proprio questo di particolare, il fatto di aver investito nella comunità e, come noi usiamo dire, mi passi questo termine, se vuole un po' gergare, riescono a rigenerare legami sociali, cosa di cui c'è molto bisogno oggi in questo contesto che siamo abituati a definire di legami liquidi, sì, di legami sfarinati. Invece sono quasi un collante, una linfa vitale che è un po' fluida, un po' collante. Esatto. Allora, non siete eroi, lo chiedo ad Aldo, vi chiamo per nome. Come, no, con piacere. Ecco, non siete eroi, come in breve ci ha anticipato la professoressa Marta, eppure voi che donate sangue donate qualcosa di molto speciale, vitale, unico. Sì, è vero, il volontario del dono del sangue è una persona che responsabilmente, ma in maniera anonima e gratuita, dona qualcosa di sé all'altro. Dona praticamente il sangue o un suo componente, che è un elemento indispensabile per garantire la medicina trasfusionale e per garantire quindi nell'ambito dell'assistenza al cittadino, all'ammalato, una buona sanità, cioè garantire, certo, interventi, garantire operazioni, garantire tutto quello che sono pratiche cliniche, oncologiche, che ammontano all'incirca 11.000 eventi al giorno in Italia. Alessandra, tu sei giovane, anche tu non sarai una persona speciale, ma insomma sei abbastanza speciale, ti avvicini molto. Tu sei una volontaria del gruppo Abele e vai in giro a bordo di un'unità mobile a trovare le prostitute di notte. Sì. Ecco, allora io mi chiedo come l'ha presa ad esempio la tua mamma quando giovane. Di solito le mamme, qua abbiamo anche due mamme qua in studio, quando i ragazzi escono dicono: mi raccomando, non tornare tardi, dove vai, con chi sei, non andare lì, dove fate un posto tranquillo. La mamma di Alessandra sa che Alessandra di notte sale a bordo di un'unità mobile e va in luoghi che sono considerati molto a rischio. Alessandra. Mia mamma sicuramente i primi tempi non l'ha presa molto bene, anzi era molto preoccupata. Dopodiché ho provato a spiegarle i motivi per cui mi sembrava importante andare, ha capito e quindi adesso è sempre preoccupata. Ma senti, cos'è che ti ha spinto la prima a iniziare questo tipo di volontariato? Io sono contenta che ci sia Alessandra, perché anche le ricerche, la professoressa Marta poi ce ne parlerà, si sono molto focalizzate sul profilo del volontario giovane, che ha delle caratteristiche diverse da quello adulto, da quello che magari è più anziano, che smettendo magari il lavoro si dedica agli altri. Quindi sono un po' dei personaggi particolari. Alessandra, che cosa ti ha spinto a diventare volontaria del gruppo Abele, con un tipo di volontariato così, se vuoi, esposto, e quindi a trovare il tempo tra gli amici, l'università, la famiglia per fare questo passo? Sicuramente sarà capitato un po' a tutti la sera, tornando a casa, di vedere sulle strade queste ragazze giovanissime, seminude, al freddo. Ecco, io volevo smettere di guardare impotente e provare invece a fare qualcosa. Si tratta di ragazze molto giovani, spesso della mia età, se non addirittura più piccole, che arrivano da paesi poveri in cerca di un futuro migliore e invece vengono poi sfruttate sulle nostre strade, spesso con la promessa di falsi lavori. E Alessandro, una ragazza giovane come te cosa può dire a queste sue coetanee? Beh, sicuramente posso ascoltarle, posso interessarmi a loro, chiedere quale sia la loro storia, quale sia stato il loro viaggio per arrivare in Italia. Quindi io credo che l'interessarsi o avere una parola di conforto, ma anche solo il semplice ascoltare cosa hanno queste ragazze da dire, sia molto importante anche per loro. Riesca a ridare un po' di dignità anche a queste tre ragazze, che vengono appunto spesso mercificate per il loro corpo, invece certo, sono persone talvolta molto fragili, che hanno tante cose da dire. Regina, l'abbiamo sentito dire tante volte e ci viene proprio dal cuore: non posso vedere un bambino che soffre, è un dolore troppo grande, è un'ingiustizia, mi si stringe il cuore. Però ci sono dei volontari che vincono questo stringicuore e vanno dai bambini in ospedale, bambini che hanno degli occhi che raccontano storie molto tristi, persone che aiutano le mamme e i papà di questi bambini ad avere un pochino di speranza, a tirare un po' il fiato, a farsi un giro, andare a leggere il giornale con tranquillità. Regina, come si riesce a fare tutto questo? Si riesce quando si sa quanto sia importante per il bambino ritrovare, pur nell'ambito dell'ospedale, con tutte le sue rigidità, con le fatiche delle terapie eccetera, il suo mondo di bambino sano, quindi ricostruire intorno a lui quei luoghi, quei momenti, quelle attività che lo distraggano un pochino da quello che comunque rappresenta per lui l'ambiente, senza dimenticare poi il genitore che lo accompagna, che è ugualmente e così tanto bisognoso di essere ascoltato. Mi riallaccio a quello che diceva prima anche Alessandra. L'ascolto è in fondo tutto quello che noi possiamo dare a questi genitori, perché noi siamo persone che sanno di essere tenute a segreto professionale, per cui qualunque cosa viene raccontata sanno che non uscirà di lì, quindi riversano davvero su di noi tantissime ansie che magari non raccontano alla famiglia, per non preoccuparli troppo, per non rendere ancora più angoscioso questo ricovero del bambino. Quindi come dire, il volontario è un luogo di accoglienza di tutte queste cose, di tutte queste ansie che devono essere raccontate, ma che non possono essere raccontate nei familiari, proprio per cercare di mantenere sotto controllo questo dolore che accompagna un po' tutti la cerchia per questa malattia del bambino. E quindi il genitore ha bisogno di questo momento, il bambino ha bisogno di ritrovare la capacità di giocare, di ridere, di divertirsi anche nell'ambiente dell'ospedale, e tutto questo porta un sorriso in più, ed è tutto qui il nostro lavoro. Sono Bruce Nolan da Buffalo, dalla prima donazione del sangue, sì, il tuo miracolo. E una bellissima giornata. Venite tutti perché la vita che salvate potrebbe essere la mia. Stanno per Eyewitness News con tutti gli amici qui della donazione di sangue che vi ricordano... Sì, il tuo miracolo! Mi avete sentito? Adesso devi andare lì, l'infermiera ti aspetta. Ma devo proprio fare... Guarda che non ti fa male. Anzi, penso che lo troverai molto piacevole. Importanza e piacere dell'essere donatore di sangue. Chi dona innanzitutto lo fa in maniera consapevole, quindi sapendo di dare un tessuto, perché il sangue è un tessuto fluido con le sue cellule, i globuli rossi, le piastrine, il plasma, che è importantissimo per ottenere poi attraverso la lavorazione industriale i farmaci plasma derivati, ma lo fa nella consapevolezza che con la sua accettazione di consenso, con l'informazione che riceve e la promozione di informazioni attraverso le associazioni, attraverso una selezione guidata, accurata e approfondita da parte di personale sanitario, di un medico, praticamente sottopone se stesso anche a un periodico controllo del suo stato di salute. Sì, l'abbiamo detto tante volte, Aldo, in fondo anche il volontario, che il donatore di sangue ci guadagna, mettiamoci tra virgolette questo guadagna, perché è una persona che può controllare meglio la sua salute, oltre che per essere donatore di sangue si deve adottare uno stile di vita più sano, più regolare. Certo. Non dimentichiamo un aspetto fondamentale: il donatore di sangue è una persona che col suo gesto, anche se in maniera così molto direi umile, però è consapevole di aver potuto fare qualche cosa di importante per un'altra persona che non conosce. Sì. Cioè, questa è un mi po' sembra, la differenza rispetto agli altri volontari che ad esempio o alla dottoressa Fioroni che parlavano di un contatto fisico. È ecco, vero. Qui il donatore di sangue è una persona normalissima che fa il suo gesto dando un po' di tempo, allungando un braccio, ma lo fa verso qualcuno che non conosce e non conoscerà. Ci scrive Mara: sono volontaria da più di 20 anni, una volontaria e una donatrice di sangue e di Croce Rossa. C'è una gratificazione che appaga nel profondo ed è una sensazione bellissima. Andiamo a Torino, ci chiama Franco, buongiorno. Buongiorno a voi, buon Natale. Grazie, ma Franco, vorrei che voi tutti ci aiutaste, ma parlavo prima con la nostra regina Sironi, diceva Natale ci sono molte persone che vogliono fare qualcosa, vogliono venire in ospedale, forse Alessandra anche magari ci potrebbe raccontare più o meno la stessa cosa. Ricordiamoci che l'anno è lungo, non c'è solo Natale, e si può diventare magari volontario e cominciare dal prossimo anno pensandoci bene, e quindi per fare una scelta più consapevole e più mirata. Intanto Franco, vengo a lei. Lei è volontario? Sì, io sono volontario da 2 anni presso una struttura ospedaliera in un reparto di Alzheimer. E praticamente siamo solo 2 volontari, però è una cosa talmente bella che ho iniziato così perché comunque avevo una persona cara all'interno, e poi ho proseguito io perché ho visto le realtà come sono, e la cosa mi gratifica, anzi posso dire di più, che mi manca quando non ci sono. Mi manca quando non ci sono. Franco, io ho davanti a me la professoressa Elena Marta, che come veramente un ricercatore, e come fanno di solito i prof, sta prendendo appunti. Franco, secondo me, ha sottolineato un aspetto importante: mi manca quando non ci sono, una sorta di piacevole dipendenza, un po' quella che provano le persone che fanno attività fisica, ricevono piacere da questa attività fisica e vanno un po', no, in riserva quando non la fanno. Sembra una cosa molto simile, non vorrei fare un confronto troppo azzardato, ma cosa dicono le ricerche? Si può essere dipendenti dalla generosità? Ma sì, io vedrei quello che lei diceva in maniera molto positiva. Sono molto grata a queste testimonianze che i volontari hanno dato, perché sono proprio testimonianze di volontariato maturo, sì, che ci aiutano anche un po' a uscire dallo stereotipo del volontario come persona che sacrifica tutta se stessa solo in nome degli altri. Ecco, direi che proprio i volontari più maturi, quello che hanno interiorizzato la scelta, che si assumono la responsabilità delle loro azioni e sono consapevoli proprio del significato di ciò che fanno, sono quelli che riescono a dire: lo faccio per gli altri, ma lo faccio anche per me, per avere un sorriso in ritorno, per avere uno sguardo, perché questo mi fa star bene, perché aumenta la mia autostima, perché incide proprio anche sul mio benessere fisico. Mariuccia ci chiama da Vicenza. Buongiorno e auguri. Tanti auguri anche a voi. Ecco, io sono una volontaria ospedaliera dell'AVO, sto entrando in ospedale adesso. Sì. Niente, la mia testimonianza era solo che ci sono di fare così poco, ma che ci viene veramente ricompensato tanto dal sorriso, è indescrivibile quello che si prova. Ecco, noi dedichiamo poco tempo, ci sembra, ma per chi ha bisogno è sempre Mariuccia, bello. Scusami, ma quando hai iniziato? Perché hai deciso di diventare volontario? Avevo del tempo libero, così, saranno una decina d'anni che lo faccio. Ecco, e giravo per gli ospedali, così mi capitava, e dico: potrei essere qui anch'io. Sì. Ecco, e poi è una cosa che non ti lascia più. È una cosa che non ti lascia più. Sì, veramente. Mariuccia. Ecco, fa bene agli altri, fa bene a noi stessi anche, tanto. Grazie, ecco. Mariuccia, per averci raccontato la tua storia. Buon Natale. E buon Natale a tutti. Grazie, un abbraccio. Prima di andare da Emilio da Milano, che saluto. Emilio, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. E lei che tipo di volontario è? Io sono un volontario della Croce Rossa Italiana. Sì. Quindi noi facciamo volontariato di tipo sanitario. Sì. Anche per me, come la collega di prima, io facendo il volontario ho riscoperto il valore del sorriso. È una cosa meravigliosa poter aiutare le persone ed essere ripagati con un sorriso. È un valore incredibile, è una cosa che ti tocca il cuore e poi non ti lascia più. Emilio, come hai iniziato tu? Ma io ho iniziato più per curiosità circa 10 anni fa. Mi sono poi innamorato del volontariato, fino al punto io faccio il volontariato la domenica sera, faccio la notte della domenica con altri colleghi. Sì. E per me la domenica è una giornata felice, nell'attesa del turno, è veramente bellissimo, siamo un gruppo affiatatissimo, è veramente bello, Nicoletta, credo che sarebbe un'esperienza che fa bene. Tu la consigli a tutti, Emilio? Sì, sì, assolutamente sì. Spero che tanti vengano, perché è anche un appello, nonostante che siamo in molti, il lavoro è tanto. C'è da fare, Emilio. C'è da fare ed è bellissimo fare, è una esperienza stupenda, ti riempie il cuore, veramente Nicoletta, è poter donare anche un sorriso, anche una parola, una carezza, è veramente eccezionale, guarda, io ringrazio la Croce Rossa che ci permette di farlo, ringrazio chi ci addestra, ci aiuta, e è bello, è una cosa stupenda, guarda, lo Emilio, consiglio a tutti. Emilio, la tua passione, Natale, il tuo cuore buca, no? Si sente come quello come che tu hai definito la mia collega di prima. Grazie Emilio per la tua testimonianza. E io volevo chiedere alla nostra professoressa, ci vogliono dei requisiti particolari comunque per essere volontari? Bisogna avere una personalità, essere un po' strutturati, insomma cercare di portare il proprio cuore, le proprie energie, le proprie forze nell'ambito in cui si fa volontariato, ma allo stesso modo si deve rimanere, la vita deve essere altrove, no? Certo, assolutamente sì, deve essere chiaro ai volontari che quella è un'esperienza di una parte della vita, della giornata, della settimana, ma occorre mantenere anche ben salde le gambe, i piedi, il cuore al resto della propria vita e della giornata. È una scelta che risponde a diverse motivazioni, che possono essere di conoscenza di altre persone, di testimonianza di valori, ma direi che il volontario che è tanto più efficace caccia, il volontario che riconosce anche di doversi in qualche modo formare all'azione volontaria, certo, che andrà a fare, che riconosce che appunto oltre al volontariato esiste la sua famiglia, esistono i suoi amici, esiste quindi, continua ad esistere il suo network amicale, familiare, e il volontariato si insinua, si inserisce nell'organizzazione della sua vita, tra virgolette, normale, senza assorbire tutta la vita e senza neanche assorbire solo uno spazio residuale. Quindi... Certo. E adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo subito dopo insieme. Essere e benessere. Come promesso, eccoci di nuovo insieme. Prima dell'interruzione stavamo provando a capire se ci vogliono o meno dei requisiti o una struttura particolare per essere volontari. Allora approfitto dell'aiuto della nostra Alessandra. Tu riesci? Ti senti una persona, pur così giovane, così forte, strutturata per portare il tuo aiuto alle prostitute? Quindi vieni a contatto con ragazzi molto spesso giovani della tua età, ma con una vita molto lontana da quella che hai fatto tu, hai avuto possibilità di fare tu? Certo, io ho una vita normalissima, riesco a frequentare i miei amici, a vedere i miei amici, anche perché le uscite notturne sono due alla settimana, quindi diciamo che mi rimane molto tempo libero da dedicare agli altri. Senti, Regina, invece per rifacendoci al discorso della professoressa Marta, voi per i vostri volontari li formate e mi dicevi prima di andare in onda che nonostante ci siano in questo periodo molte richieste di adulti che vi chiedono di aiutare, di entrare in ospedale magari il giorno di Natale, la vigilia di Natale, per stare vicino ad un bambino, voi siete molto cauti e andate con i piedi di piombo, proprio non solo perché Natale è per voi tutto l'anno, ma anche perché il volontario, soprattutto un volontario che si affianca ad un bambino, ad un minore, deve avere delle caratteristiche particolari e deve essere formato. Sì, certo, noi siamo dispiaciuti di dover dire di no, però in effetti spieghiamo anche alle persone che ci telefonano che per entrare in ospedale questo percorso di formazione è un percorso obbligatorio, ed è un percorso obbligatorio perché il mondo dell'ospedale, il mondo del bambino è molto delicato, quindi la persona, pur piena di generosità, ha bisogno di strumenti per rendere efficace il servizio. Quindi tutti coloro che pensano ai bambini ammalati oggi guardino sul nostro sito, c'è il programma dei corsi, credo dei prossimi 4 mesi nelle varie città d'Italia. Se telefonano, scrivono a noi, trovano comunque tutte le informazioni per potersi avvicinare al nostro volontariato, ma appunto il percorso di formazione è fondamentale. Aldo, invece, si può donare il sangue, l'importante è avere, soddisfare dei requisiti. Li vogliamo ripetere per i nostri ascoltatori che, sentendo anche la tua testimonianza e alcune testimonianze via SMS che ho letto, mi chiedono: posso donare quando, certo, quando, anche durante le vacanze di Natale? Questo sarebbe un bel regalo. Aldo. Sì, sicuramente bel gesto da fare, però è importante farlo tutto l'anno e donare quando serve, perché così il dono è ancora più valorizzato. Allora, possono donare tutte le persone in buona salute che hanno tra i 18 e i 65 anni di età, che non hanno malattie infettive, che non prendono farmaci e non hanno in corso, diciamo, delle patologie in atto, non hanno patologie croniche, non soffrono di disturbi dell'apparato cardiovascolare o, sì, di grossi apparati. E l'importante, ecco, è sentirsi bene, rivolgersi al servizio trasfusionale piuttosto che ai centri di raccolta, alle unità di raccolta gestite dalle associazioni, e proporsi in quanto disponibili a effettuare una donazione. Si viene valutati in maniera molto professionale, molto corretta, e se ci sono i requisiti si procede con la donazione. Io, nell'ambito della donazione del sangue, mi permetto di dare un altro numero. Sì. I donatori di sangue in Italia che afferiscono all'Avis, alla Croce Rossa, alla Fidas e alla Frates sono più di 1.600.000, e desidero anche cogliere questa occasione per ringraziarli di quanto fanno e fanno durante tutto l'anno, soprattutto nei momenti più critici, che, certo, sono i momenti invernali, i mesi di febbraio e di gennaio, e i mesi estivi, quando le persone poi magari vanno in vacanza e i malati invece restano negli ospedali. È importante però sapere che questo 1.600.000 di donatori di sangue e dei suoi componenti non sono ancora sufficienti per garantire quasi sempre tutto l'anno in alcune regioni una terapia trasfusionale disponibile e sicura, perché il donatore periodico oltretutto dà la massima garanzia per il paziente. Ci scrive Vittoria un messaggio molto carino: ma il volontariato è solo quello che si fa fuori casa? Io assisto 4 nipoti aiutando 3 famiglie, come mi devo considerare? Una nonna magnifica, Vittoria, ma credo, no? O possiamo... Assolutamente sì, è chiaro che la propria famiglia comunque è il primo punto in cui, certo, bisogna essere presenti, disponibili. Poi dopo c'è sempre il tempo in cui i nipoti andranno a scuola, quindi il tempo, insomma, Vittoria fa un po' di palestra. Esatto. Andiamo a Vasto, ci chiama Luca, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, Luca. Senti, innanzitutto voglio fare i complimenti a tutti i volontari per il lavoro che fanno. Sì, ci associamo. Io praticamente, la mia esperienza, io sono, diciamo, un volontario freelance, nel senso non faccio parte di nessuna associazione. Sì. Sono un infermiere all'ospedale e quindi praticamente opero su due fronti che sembrerebbero contrapposti, cioè l'assistenza e l'animazione ai bambini nelle pediatrie e poi dopo, in maniera contrapposta, l'assistenza agli anziani nelle case, quindi vado a fare prelievi, misurazioni di pressione, tutto in maniera gratuita. Mi è piaciuta la tua definizione, Luca. Come? Mi è piaciuta la tua definizione. Quale? Freelance. Freelance, sì. Grazie Luca, vi leggo un messaggio di Roberto, 33 anni, di Vicenza. Sono clown di corsia e l'ho scelto per il valore della condivisione. Donandomi ai bambini in forma di clown ho riscoperto il bambino che c'è in me. Mi sono sciolto da una certa rigidità. Professoressa Marta, può funzionare come una sorta di autoterapia? Ma diciamo che le azioni di volontariato in qualche modo possono avere le proprie radici anche nella storia familiare e personale, quindi attraverso l'azione è possibile anche rielaborare vissuti che sono personali o che sono familiari. A maggior ragione è quindi necessario sempre che le organizzazioni si dotino, oltre che di corsi di formazione, anche di momenti di supervisione per i volontari. Ecco, vorrei che fosse arrivasse anche questo messaggio, che è importante per le organizzazioni selezionare i volontari, formarli all'inizio, ma poi non lasciarli da soli, accompagnarli, certo, nel cammino di cambiamento delle motivazioni, di ripensamento, anche tollerare che a volte un volontario dica: voglio andarmene per un po', perché non mi riconosco più. E adesso andiamo da Paolo, che ci chiama da Padova. Buongiorno a lei e benvenuto. Buongiorno a voi. A differenza delle, se vogliamo, delle attività un po' più tradizionali, vedasi il donatore di sangue piuttosto che chi si occupa squisitamente di sostegno a, sì, diciamo, persone, l'ambito della medicina, dei bambini, eccetera. Ecco, io e mia moglie in realtà ci doniamo qualcosa di un po' differente, perché è la nostra voce, nel senso che noi siamo donatori di voce, appunto, per l'Unione Italiana Cecchi. Sì. Tutti lo sanno. Noi siamo la radio, noi Radio 24, la radio ufficiale degli ipovedenti e non vedenti, e quindi lei gioca a casa e io sono molto contenta di avere un volontario che dona la sua voce per le associazioni dei non vedenti. Bene, bene. È una cosa molto, anche qui, se vogliamo, è simile a chi dona sangue, perché non si sa assolutamente a chi venga, poi quale sia la platea in sostanza, e quindi è un qualcosa di completamente, come dire, gratuito e disponibile per chiunque ne voglia usufruire, e ritengo che sia una forma, se vogliamo, in alcuni casi magari ritenuta minore, ma in realtà c'è una platea molto molto folta di persone, certo, che utilizzano, chiaramente non potendo utilizzare normalmente un testo, che sia un testo universitario piuttosto che un libro di narrativa. Noi riteniamo che sia molto utile, insomma. Certo, con la sua voce regala un senso. Noi crediamo e speriamo di sì, ecco. Ma grazie davvero Paolo. Io poi penso che non ci siano, no, volontari nel volontariato, non ci sono di serie A, di serie B. Ma volevo sentire la mia Alessandra, che devo dire qui penso che mi incuriosisce, mi dà fiducia, insomma mi piace Alessandra, la sua storia mi piace. Alessandra, quanto ti ha cambiato il tuo essere volontaria del gruppo Abele e trovarti anche in delle situazioni, immagino, insomma, abbastanza anche difficile? Tu entri in quei luoghi in cui molte persone vogliono fuggire, no? Perché proprio che cosa ti ha dato? È sicuramente un'esperienza di forte impatto emotivo, ma sicuramente molto formativa, nel senso che ti permette di mettersi in gioco in prima persona per provare a cambiare realmente le cose senza giudicare, provando a capire effettivamente cosa c'è dall'altra parte, e aiutando quelli che vengono spesso definiti gli ultimi degli ultimi. Mi piace Alessandra che professoressa Marta dice hai imparato a non giudicare. E io penso che sia possiamo metterla come una delle caratteristiche proprio tipiche del volontario, oltre a quella di essere generoso, di offrire gratuitamente il suo dono. Certo, possiamo anche fare dei riferimenti alla letteratura da questo punto di vista, perché ci sono colleghi anche americani, per esempio il professor Yunis, che ha proprio sottolineato questo aspetto, cioè quanto l'avvicinarsi a realtà difficoltose, di dolore, di sofferenza, ti aiuti anche a pensare quanto sei stato fortunato e quanto sarebbe potuto capitare a te, e quanto quindi devi chiederti come mai è successo a quella persona, quindi a non giudicare ma allargare il tuo orizzonte valoriale, relazionale, per comprendere, ecco, certo, per stare vicino con vera compassione, capire, aiutare. E la testimonianza di Alessandra secondo me è molto importante, perché diciamocelo, oggi c'è molta letteratura su questa giovane generazione in cui la giovane generazione è descritta come incurante, insofferente, invece sono poco forti, narcisista, invece ci sono non saranno tanti, ma insomma. Ma ci sono dei giovani. Un po' e un po'. Regina, vuoi aggiungere qualcosa? E poi passiamo ad Aldo, facciamo una carrellata, abbiamo anche Maria Antonietta da Napoli. Sì, certo. Volevo dire che intanto non esiste un volontariato minore. I volontariati sono tutti estremamente importanti, perché il dono del proprio tempo, quando è accompagnato da qualità, da consapevolezza, da lucidità, da intelligenza, è uno straordinario dono per le persone che lo ricevono, anche se non le conosciamo proprio. Certo. E di questo bisognerebbe essere anche più fieri. Io lo dico spesso ai nostri volontari: parlate, perché la vostra testimonianza può essere un valore positivo per tanti che magari non hanno incontrato la vostra opportunità di questo incontro che vi ha cambiato la vita, perché lo dicono i volontari, questo incontro con il bisogno dell'altro è stato un passo che mi ha dato tanto, che mi ha insegnato ad apprezzare il valore del fatto che io sto bene, e quindi anche la l'essere vicini senza pietismo. Oggi io posso esserti d'aiuto, domani spero che tu lo possa fare per me. Sì, una mano lava l'altra. Aldo, stai lì, perché adesso andiamo a sentire le informazioni per chi viaggia e poi tocca di nuovo a te. A tra poco. Essere e benessere. Bentornati, oggi vigilia di Natale, stiamo parlando di persone che donano non solo oggi ma tutto l'anno. Parliamo dei volontari. Abbiamo sentito prima del traffico che il volontario non giudica ma aiuta. Aldo, che cosa volevi aggiungere? Mi permetto di lanciare anche un'altra sfida per l'anno nuovo. Sì. Che le associazioni di volontariato, le associazioni che fanno solidarietà, che sono attente all'altro, facciano ancora di più rete tra di loro. Che praticamente si creino delle sinergie, perché non è escluso che un donatore di sangue possa essere anche donatore di tempo, donatore di voce, donatore di attenzione, di ascolto e viceversa. E io penso che una persona che abbia in sé questa capacità la può esprimere a tanti livelli, e quindi è bene che le associazioni secondo me facciano rete. Bello, mi sembra un'ottima idea. Regina, che dici? Sicuramente sì, perché fate comunque rete già. Facciamo fate rete già voi del labio con i donatori di sangue. Sicuramente sì. Maria Antonietta ci chiama da Napoli. Buongiorno, benvenuta, grazie. Ciao, grazie a voi. Allora, io faccio caritativa, mi piace chiamarla, non volontariato, ora vi spiegherò anche perché, con il banco alimentare. Sì. E portiamo a oltre 150 famiglie del napoletano il pacco alimentare mensilmente. Ci richiamo noi personalmente presso queste famiglie, sì, e condividiamo con loro i loro bisogni, non soltanto quello alimentare. Chiaramente con questo non c'è nessuna pretesa di risolvere i problemi di questa gente, no, perché sono veramente infiniti. Però quello che volevo dire è che, perché io faccio questa cosa? Io faccio questo gesto perché riconosco sulla mia vita una gratuità enorme, cioè io ho riconosciuto che sulla mia vita ho avuto uno sguardo, un abbraccio, una gratuità talmente forte che necessariamente mi porta agli altri per ricevere ancora di più questa gratuità. Io credo che andare verso gli altri e riconoscere questo, e quindi poter riconoscere anche nell'altro uno che ti abbraccia. Uno che ti abbraccia. Non solo a Natale, Maria Antonietta. No, noi lo facciamo, lo so. Facciamo tutto l'anno. E quindi io credo che bisogna partire da una positività per fare caritativa, cioè non è perché io ho del tempo da dare o perché ho una mancanza da colmare, ma per una gratuità che ho riconosciuto, che ricevo e che ogni volta che incontro questa gente ho. Maria Antonietta, grazie per il suo messaggio, per la tua testimonianza. Vedo che la professoressa Marta sta prendendo appunti, non è che ci scrive un altro libro adesso con tutti questi stimoli che ci hanno regalato i nostri volontari in ascolto. Adesso noi abbiamo pensato che, dato che la settimana scorsa abbiamo parlato del Natale, della musica del Natale, in questi giorni che precedono alla grande festa abbiamo pensato invece di dare spazio alla poesia, e quindi ci facciamo questo regalo. Ascoltiamo. Siete disposti a dimenticare quel che avete fatto per gli altri e a ricordare quel che gli altri hanno fatto per voi? A ignorare quel che il mondo vi deve e a pensare a ciò che voi dovete al mondo? A mettere i vostri diritti in fondo al quadro, i vostri doveri nel mezzo e la possibilità di fare un po' di più del vostro dovere in primo piano? Ad accorgervi che i vostri simili esistono come voi e a cercare di guardare dietro i volti per vedere il cuore? A capire che probabilmente la sola ragione della vostra esistenza non è ciò che voi avrete dalla vita, ma ciò che darete alla vita. A non lamentarvi per come va l'universo e a cercare intorno a voi un luogo in cui potrete seminare qualche granello di felicità. Siete disposti a fare queste cose, sia pure per un giorno solo? Allora, per voi Natale durerà tutto l'anno. Henry Van Dyke. Allora, 30 secondi prima di salutarci, e quindi io farei rapidamente un giro. Andiamo da Aldo. Aldo, vuoi salutarci, fare gli auguri per Natale a nome dei donatori di sangue? Veramente le migliori feste a tutti. Un augurio di buona salute, un augurio di disponibilità, di solidarietà, e perché il Natale veramente duri tutto l'anno. Grazie mille. Grazie a te, Aldo, ricordo. Alessandra. Sì, grazie a tutti e un augurio di buone feste da parte di tutto il gruppo Bele. Mi raccomando, passa anche i nostri auguri, professoressa. Beh, anche io volevo fare lei gli auguri. Lei sia brava con i suoi studenti, faccia anche lei il suo. Auguri davvero a tutti, un grazie di cuore a tutti i volontari a cui dobbiamo essere molto grati, e spero che la trasmissione abbia incentivato altri. Ma certo, Regina Sironi. Io spero soltanto che questa serenità che i nostri volontari respireranno nelle loro famiglie in questi giorni poi sia una molla per portare la loro attività sempre meglio. E adesso gli ultimi minuti della trasmissione sono tutti per un personaggio speciale che vi presento così. A che punto della storia un medico è diventato più di un fidato e dotto amico che visitava e curava gli infermi? Voi mi chiedete se esercito la medicina. Se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente, accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa. Signori, il vero nemico non è la morte. Vogliamo combattere le malattie, combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza. Nelle vostre aule ho assistito a disquisizioni sul transfert e la distanza professionale. Il transfert è inevitabile, signore. Ogni essere umano ha un impatto su di un altro. Perché vogliamo evitarlo in un rapporto paziente-medico? È sbagliato quello che insegnate nelle vostre lezioni. La missione di un medico non deve essere solo prevenire la morte, ma anche migliorare la qualità della vita. Ecco perché se si cura una malattia si vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco che in quel caso si vince, qualunque esito abbia la terapia.

much good fortune they have. Grazie, grazie davvero, buona giornata e un sorriso di cuore, grazie. Sì, arrivederci, tutto va bene. Te voglio bene. E per oggi è tutto, vi saluto, buona vigilia di Natale e io vi aspetto domani. Natale lo trascorreremo insieme a Questa casa non è un albergo, insieme ad Alberto Pellai ed un ospite eccezionale, Natale con Zucchero. Vi aspetto domani, buon Natale.